24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Chi volesse, immaginasse in Parlamento di intervenire nelle forme che riterrà opportuno a modificare qualcosa di questo sistema, qualcosa di fondamentale, sappia che manda all'aria tutto, compresa lo storico passaggio del titolo quinto e lo storico passaggio della riforma costituzionale del Senato. Questo deve essere chiaro, eh? Cioè non è che uno dice sì, mi piace, prendo da questa riforma un pezzettino. Non è una riforma alla carta. Questo accordo di oggi, oltre a restituirci la faccia con i cittadini, ci permette di superare la subalternità culturale nei confronti di Berlusconi e di superare il diritto di veto dei partiti. Se la direzione vorrà non votarlo, ne prenderemo atto. Ma se la direzione vorrà non votarlo, sappia che non vota non la proposta del segretario, ma la proposta di 3 milioni di italiani. 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666, se avete gli sms da scrivere. Il PD ha votato, lo scontro è stato duro, è aperto, ma nessuno ha votato contro. Onorevole Stefano Fassina, buongiorno. Buongiorno. Lei ha detto mi vergogno dell'incontro fra Renzi e Berlusconi. Renzi invece ha detto sono grato a Berlusconi. Due mondi a confronto che non potranno mai incontrarsi? No, assolutamente, noi abbiamo ritenuto necessario il coinvolgimento anche dell'opposizione nella costruzione delle regole. Del resto è lo stesso principio che abbiamo seguito ad aprile scorso, quando abbiamo cercato di eleggere tutti insieme il Presidente della Repubblica. Tanti di quelli che ora dicono convintamente che è necessario coinvolgere Berlusconi, allora quando Bersani cercava di farlo per le elezioni erano contrari, dicevano quindi, che facevamo l'inciucio, esatto. E quindi lei non si vergogna più di questo incontro, si dispiace di averlo detto? No, il punto è un altro. Ma che lo ridirebbe, mi vergogno? Da allora ho messo in evidenza una contraddizione. Noi da allora abbiamo votato tutti con il coinvolgimento pieno di tutti. Sì, ma volevo sapere se ridirebbe, mi vergogno. Ho messo in evidenza un punto. Non risponde. Vabbè. No, ho messo in evidenza un punto. L'espressione può essere stata forte, può non essere piaciuta. Dopodiché c'è un punto. Noi abbiamo votato per la decadenza di Berlusconi. Non è stato un passaggio rituale. No, credo. Ma la decadenza è una cosa, le regole per votare, per rifare il titolo quinto della Costituzione sono un'altra. Senta, Renzi comunque le ha riconosciuto l'onore delle armi per i suoi 13.000 voti ottenuti alle elezioni. Soddisfatto? 12.000. Scusi, 12. Non sono soddisfatto, perché l'ha fatto in un contesto in cui ha usato parole inaccettabili per quanto mi riguarda nei confronti del presidente del partito Gianni Cuperlo, che ha posto in evidenza un punto che riteniamo importante. Cuperlo però è stato eletto nei listini, Cuperlo è stato eletto nei listini come tantissimi che stanno in direzione da tutte dire che c'è una contraddizione. Ma secondo lei Cuperlo se n'è andato perché era offeso o il segno di una rottura? No, ma guardi, noi ieri abbiamo, con l'intervento di Cuperlo in particolare, abbiamo detto che benissimo l'accelerazione sulle riforme, benissimo il titolo quinto, il superamento del Senato e anche l'accordo trovato sulla legge elettorale. Abbiamo posto un punto, che è quello di evitare che le segreterie dei partiti continuino a scegliere i parlamentari. Certo, il problema dei listini bloccati. Questo punto abbiamo posto, quindi non c'è un atteggiamento di boicottaggio. Abbiamo riconosciuto il lavoro straordinario fatto anche dal segretario del partito nell'arrivare a costruire appunto un trittico che prevede titolo quinto, superamento del Senato e legge elettorale. Siamo entrati nel merito, abbiamo posto il punto. E quindi quello è il vostro paletto. Ecco, però la Corte Costituzionale ha dichiarato lecite le liste bloccate corte. In realtà, come sono in Toscana, dove governate voi da sempre, quindi così dovrebbe andar bene. No, c'è un punto che non dovrebbe sfuggire: le liste bloccate corte, non stiamo parlando del sistema spagnolo, stiamo parlando adesso di un collegio unico nazionale. Sì. E quindi chi voterà la lista bloccata corta non è sicuro che selezionerà il parlamentare, perché poi moltissimo dipenderà dal recupero dei resti che avverrà a livello nazionale. Quindi e lei pensa che su questo il Parlamento ci sarà un intervento, una discussione? Renzi ha detto però ha detto chiaramente prendere o lasciare. Ma è un atteggiamento che non aiuta, perché si può prendere l'impianto, si possono prendere i punti principali dell'accordo e si può attraverso una discussione modificare un punto che non fa saltare l'accordo, perché stiamo parlando di un punto specifico per ricostruire il legame tra cittadino e parlamentare. Renzi però ha detto non è un accordo alla carte. Quindi mi sembra che su questo la proposta, come dire, il modello di elezione che c'è in Toscana mi sembra che sia abbastanza simile a quello che viene proposto. Ma secondo lei questo fatto che in 3 mesi Renzi e Berlusconi siano riusciti a fare una cosa che la classe politica discute da anni e non è mai riuscita, non è un successo clamoroso? È un successo, ci sono tutte le premesse perché sia un successo ed è positivo e noi lavoreremo affinché questo successo possa concretizzarsi. Lavoreremo, ripeto, per migliorare, non frenare e boicottare. Va bene, senta, comunque il PD ha sempre fatto accordi con Berlusconi. Senta questo Violante. Quindi le invito, onorevole Meda, a consultare l'onorevole Berlusconi, perché lui sa per certo che gli è stata data la garanzia piena, non adesso, nel 1994, che non sarebbero state toccate le televisioni quando ci fu il cambio di governo. E lo sa lui e lo sa l'onorevole Letta. Voi ci avete accusato di regime nonostante, ripeto, non avessimo fatto il conflitto di interessi, avessimo dichiarato eleggibile Berlusconi nonostante le concessioni, avessimo aumentato durante il centro-sinistra il fatturato di Mediaset, è aumentato di 25 volte. Beh, vede che rivendica una quantità violenta, è abbastanza interessante questo Violante d'Annata, non le pare? 800 24 00 24 numero verde, 349 238 6666 gli sms, scusi se... Prego. Non le sembra interessante questo Violante d'Annata riferito ad oggi? Ma ripeto... La necessità di coinvolgere e di rispettare chi riceve il consenso di milioni di elettori è fuori discussione. Ecco. C'è stato però negli ultimi mesi, segnalo per chi ha poca memoria, c'è stata una sentenza della Corte di Cassazione, quindi una sentenza definitiva e poi un voto parlamentare. Ora, o abbiamo scherzato e abbiamo detto che quello era un'interdizione logistica dall'ingresso in Senato, oppure credo, noi allora abbiamo fatto un passaggio molto chiaro, abbiamo detto che tra il primato della legge e il primato del consenso a un leader valeva il primato della legge. Comunque adesso siamo all'accordo. Mario, Mario Secchi vuol farle una domanda. Buongiorno Fassina. Buongiorno. Però il risultato di ieri in direzione mi pare chiaro, cioè 2-0 e parla al centro per Renzi, è così? Sì, assolutamente, ma più che 2-0 direi che la partita non è stata l'uno contro l'altro. Se riascoltate l'intervento di Guberlo, abbiamo condiviso e espresso un giudizio positivo per l'accelerazione che c'è stata. Abbiamo posto il punto che è un punto politico fondamentale, ma non per il PD o per qualcuno di noi, ma per il funzionamento della democrazia, ricostruire il legame tra il cittadino che vota d'accordo, e il parlamentare che viene scelto. Quindi non c'è stato uno scontro, c'è stato un lavoro per migliorare un testo di cui riconosciamo, ripeto, la validità. Vabbè, e è stato fatto un gran lavoro e diciamo per fortuna a questo punto che Renzi e Berlusconi si sono incontrati e l'hanno fatto. Volevo chiederle, lei ha sentito D'Alema ieri? No. Perché non ha parlato in direzione, ho visto. No, non l'ho sentito. Non ha sentito. Ecco, Alfano ha detto che non ci vuole un rimpasto, ma ci vuole un Letta bis. Lei pensa che ci sarà un nuovo governo che finalmente potrà fare qualcosa e durerà senza essere ogni giorno in qualche modo sotto processo? Spero di sì, prima che appunto rimpasto Letta bis, il Partito Democratico, la segreteria del Partito Democratico deve scegliere che atteggiamento avere nei confronti del governo, perché il PD è l'azionista di gran lunga di maggioranza di questo governo, non può trattare il governo come fosse un governo. Però le cose dette da Renzi ieri fanno, insomma, più o meno prefigurano un percorso almeno di un anno per realizzare le cose previste, quindi è ragionevole supporre che il governo vada avanti e che forse sarà un nuovo governo. Ma guardi, non basta che vada avanti, il governo deve fare, quindi e affinché faccia, non basta dire il governo faccia, poi noi come Partito Democratico diamo i voti o diamo le bacchettate se qualcuno sbaglia, ci vuole un coinvolgimento pieno, quindi io credo che si debba andare a una revisione della squadra di governo. Insomma, un governo, quindi un Letta bis. Un Letta bis lo sceglierà il Presidente del Consiglio, il Presidente della Repubblica, ma il punto è politico. Esatto. Il PD deve scegliere se sostenere fino in fondo il governo oppure considerarlo un governo tecnico, un governo altro da sé, e questo credo sarebbe un problema, perché non si fanno le riforme se non c'è un coinvolgimento pieno del Partito Democratico. Luigi ci scrive: finalmente c'è uno di sinistra che fa fatti e non ideologie. Ah. Esempio D'Alema. Cosa diciamo a Luigi che ci scrive questo? Che speriamo che sia così, dopodiché ricordo a Luigi che ci sono stati tentativi seri, allora largamente boicottati sotto, diciamo, la categoria dell'inciucio, perché la bicamerale che D'Alema aveva presieduto per arrivare alle riforme istituzionali del 1996 è stato un tentativo serio e non è fallito, non è stato chiacchiere, è fallito perché poi a un certo punto proposte Berlusconi, c'erano. Berlusconi si è sfilato, quindi anche nella ricostruzione dei 20 anni che abbiamo alle spalle gradirei un po' più di attenzione ai fatti. Sì, giusto. Posso fare una domanda provocatoria per Fassina, che insomma sono sicuro l'accetterà con sportività? Ma non è un po' la nemesi dell'anti-berlusconismo questa mossa di Renzi di chiudere una stagione, diciamo così, con Berlusconi e aprirne un'altra con Berlusconi? Ma ritengo che il tentativo, secondo me bisogna distinguere tra Berlusconi e Forza Italia. È difficile distinguere fra Berlusconi e i voti. Li ha presi Berlusconi, questo credo che sia difficile contestarlo. Fassina, sono un esperto del settore. Ti assicuro che Forza Italia è Berlusconi e basta. Cioè, non è possibile. Dopodiché io credo che dobbiamo anche guardare a quello che è successo in questi mesi. Sono successi fatti importanti. Dopodiché ora le chiacchiere stanno a zero. C'è un accordo, andiamo avanti. A lavorare su questo accordo, cerchiamo di migliorarlo per quanto ci riguarda, noi vogliamo che le riforme vadano in porto, per il resto dimentichiamo. Insomma, allora Fassina applaude a Renzi, possiamo dirlo, almeno un applausino. Riconosco che ha fatto un ottimo lavoro. Ah, ma non me la dà sta soddisfazione, proprio non me la vuol dare, va bene. Dopodiché poniamo dei punti di merito. L'ho capito. Comunque io la ringrazio molto per la sua cortesia. Il Ministero degli Esteri israeliano, guidato dal falco Avigdor Lieberman, ha convocato gli ambasciatori di Gran Bretagna, Francia, Italia e Spagna per avere chiarimenti sulle posizioni espresse da questi paesi sul conflitto israelo-palestinese, posizioni che, si riferisce la stampa israeliana, secondo il Ministero non sono equilibrate, e la risposta a stretto giro del governo israeliano, uguale e contraria a quella dei paesi europei che ieri avevano anch'essi convocato l'ambasciatore israeliano per manifestare la preoccupazione per gli annunci di nuovi insediamenti a Gerusalemme Est. Una mossa voltiamo che aveva già pagina e parliamo di esteri. Come avete sentito, il Medio Oriente è ancora alla ricerca della pace. Ieri il capo dell'agenzia atomica iraniana, Ali Akbar Saleni, ha annunciato l'inizio dell'arresto volontario della produzione di uranio arricchito al 20%. La scorsa settimana, l'abbiamo sentito, il ministro degli esteri israeliano ha convocato gli ambasciatori di Francia, Italia, Gran Bretagna e Spagna per la presa di posizione inaccettabile, sostiene lui, dell'Unione Europea nei confronti di Israele e invece a favore dei palestinesi. Andiamo in Israele da Fiamma Nierenstein. Buongiorno. Buongiorno, ciao Fiamma. Giovanni. Ecco, perché questa preoccupazione di Israele? Guarda, dunque, innanzitutto questa questione del rapporto fra l'Europa e Israele è una questione veramente importantissima, annosa, forse bisognerebbe che gli europei se lo mettessero un po' all'anima, perché questo fatto di sentire l'Europa sempre così sul fiato, col fiato sul collo e sempre che danno ragione ai palestinesi è diventata per Israele una vera ossessione. Però un gesto così forte, un gesto così forte non c'era mai stato, mi sembra, se non ricordo. Mai stato. Ti devi ricordare quindi che la Ashton aveva promulgato qualche mese fa una cosa che si chiama guidelines, che proibisce di fare affari oppure di finanziare qualsiasi progetto che abbia a che fare anche da lontano, cioè anche se stai dentro la linea verde, però hai a che fare con gli insediamenti, tu non puoi più avere un rapporto economico con l'Europa, capisci? Per esempio, sì, che questo investe l'Università di Gerusalemme, tanto ecco, per dirne Netanyahu... una, perché l'Università di Gerusalemme è a Gerusalemme Est, quindi sì, è pazzesco, certo, capisci? C'è un elemento eccessivo in tutta questa vicenda che fa pensare a Israele, sì, che nel corso del processo di pace non è bello che l'Europa si sogni di disegnare lei i confini di Israele, che li lasci discutere fra israeliani, ecco, e palestinesi. Netanyahu, c'è un altro è una discussione però che va avanti da tanto tempo, Fiamma. Che loro pensano, Fiamma, che questo, Fiamma, sia suggerito da Kerry, capisci? C'è, sì, anche questo elemento. Cioè, praticamente, diciamo, Netanyahu parla a nuora perché suocera intenda, diciamo, parla all'Europa perché capisca l'America. Dici benissimo, c'è anche questo elemento, senz'altro. Parla all'Europa prima di tutto perché capisca l'Europa, perché sai, l'Europa è la mamma di Israele, è una mamma cattiva che non lo capisce. E allora cosa gli ha detto Netanyahu l'altro giorno? Non tanto Lieberman, che poi non è neanche lui che, sì, li ha ricevuti, vabbè, okay, li ha ricevuti, d'accordo, il direttore del Ministero degli Esteri. D'accordo, vabbè, questi sono dettagli. No, diciamo la sostanza politica pesante di quello, sì, che poteva sembrare. Ma invece Netanyahu gli ha detto: ma perché non dite mai ai palestinesi di smettere di lodare il terrorismo, per esempio quando noi liberiamo, come ci siamo impegnati, i terroristi, perché li accolgono dicendo siete degli eroi, avete fatto delle cose meravigliose. Fiamma, poi però Fiamma, ecco, Fiamma, dice, scusami, ditelo anche a loro qualche cosa, sì, perché lo dite, sì, sempre solo a noi? Adesso siete ipocriti, ha usato questa parola, siete ipocriti, ecco. Però tu dici l'Europa è una mamma cattiva, ma è una mamma che vorrebbe che quei due figli che litigano e che non riescono a fare la pace, invece la facessero, quindi una mamma cattiva ma che ha un obiettivo di pace, forse. Appunto, sì, sì, ma su questo io non ho dubbi che abbia un obiettivo di pace, però io penso anche che dovrebbe allora suggerirlo a tutte e due le parti. Va su bene, questo mi pare, okay, che Israele abbia ragione, perché i palestinesi vogliono dei territori. Qui c'è un discorso sotto traccia molto presente, cioè veramente in questi giorni si sta discutendo seriamente di questa questione, le delegazioni si incontrano, certo, fuori, infatti non questo adesso ne parliamo, nulla, invece noi siamo venuti come giornalisti a sapere che di fatto, insomma, si parla di scambi territoriali, tutta una serie di cose che poi ti racconterò molto volentieri quando verranno alla luce in maniera infatti più consistente. Ci risentiremo dopo che c'è Mario. Senz'altro, c'è Mario Secchi, però, appunto, Fiamma, Fiamma, Fiamma, Fiamma, parte, frena, a negare Israele, Fiamma, Fiamma, Israele, Fiamma, ascolta, stato ebraico, che sia Fiamma, stato ebraico. Fiamma, ecco, ascolta, ecco, un attimo, c'è Mario Secchi che ti vuol fare una domanda. Prego. Buongiorno Fiamma. Ciao, che possibilità c'è, per me zero, però è sul tappeto, so che ci sia, insomma, il rientro di tutti i profughi palestinesi che sono sparsi nel mondo in quei Ma territori? Ma che vuoi scherzare, Mario? Questa è una domanda pazzesca. Però so benissimo che te sai me la chiedi che... così per giocare con me, sì, un po', perché sì, qualsiasi giornalista di destra, di sinistra, di centro sa che se rientrassero i figli dei figli dei figli, perché ormai siamo alla quarta, alla quinta generazione di tutti i palestinesi sparsi nel mondo, questo significherebbe la fine dello Stato di Israele, cioè l'elemento, certo, demografico sarebbe travalicante, overwhelming si direbbe. Tu in sai non che però questa è una delle richieste. Sai che questa è una delle richieste che si fanno, che aleggia. Sì, esatto, però è una di quelle richieste che mettono fuori gioco qualsiasi possibilità di accordo, e quindi io so, sempre appunto per le vie traverse con cui noi giornalisti veniamo informati di questi segretissimi accordi, che il diritto al ritorno non compare in queste linee possibili prossime venture, che dovrebbero addirittura essere presentate la Fiamma, settimana prossima. Fiamma, domani si apre la conferenza, no, oggi, sulla Siria. Sì. In Iran è iniziato lo stop dell'arricchimento dell'uranio, sì, al 20%. È un segnale positivo oppure no, secondo te? Beh, è un segnale confuso. Per quello che riguarda la Siria, te sai che Ban Ki-moon aveva fatto la gaffa di invitare l'Iran e quindi subito l'opposizione a Assad ha detto l'Iran è un fiancheggiatore di Assad, quindi se ci sono loro noi non veniamo. Questo era di ieri sera. Sì. Stamattina abbiamo la notizia invece che Ban Ki-moon ha dovuto ritirare questo invito perché era una provocazione, esatto, più che un invito, e quindi la conferenza si fa. Quindi, vabbè, quindi è una prima vittoria, è una prima, facciamolo pure, è una prima vittoria dell'Iran, in fondo questa andata avanti e indietro della proposta fatta e ritirata, in qualche modo una lotta tra occidentali più l'Arabia Saudita, o sbaglio? Dici molto bene, non solo prima vittoria dell'Iran, ma una delle molteplici vittorie dell'Iran in questo periodo. Io non so quanto ci si possa rallegrare di questo, dato che il problema iraniano non è soltanto il problema dell'atomica, ma è il problema dei diritti umani, delle condanne a morte, della gente perseguitata, dell'esportazione terribile di terrorismo. Comunque... Fiamma, un'ultima domanda ti devo fare perché siamo in chiusura. È vero che Netanyahu vuole incontrare il presidente dell'Iran, Rouhani? Allora, Netanyahu ha detto io sono pronto a incontrare Rouhani se l'Iran ci riconosce. Ora, la cosa è detta un po' così, però di certo... È un primo passo abbastanza importante. È una di quelle cortesie diplomatiche che aprono la strada poi anche a discorsi più realistici. Che i due si incontrino non la vedo per niente possibile, proprio perché, benché l'Iran abbia dato il via a questa nuova fase che deve sperimentale, che deve durare 6 mesi per poi vedere cosa succede, io dico che perlomeno questi 6 mesi o un anno, si parla di 6 mesi o un anno, prima che fra Israele e l'Iran, se tutto andrà bene, si possa aprire qualche strada, non succederà niente. Grazie Fiamma, ci risentiamo per commentare la conferenza, l'esito della conferenza sulla Siria, e intanto, prima di andare in pubblicità, una telefonata mi pare che riguarda ancora la legge elettorale, ma ne vale la pena, Massimo da Bologna. Massimo, buongiorno. Buongiorno. Senta, grazie per l'opportunità concessami. Io volevo dire in breve, mi sa che tra i Berlusconi e Renzi ci sia un po' di inciuncio. Renzi ha bisogno di Berlusconi per tomare una vecchia classe politica all'interno del PD, quasi un regolamento di conti. E io dico che le regole, secondo me, si scrivono in Parlamento, con tutte la classe politica, con tutte le appartenenze politiche e sociali, perché sennò che senso avrebbe, secondo me? E poi fino a prova contraria, infatti l'onorevole Fassina, io faccio una premessa che non sono un elettore del centro-sinistra. Sì, però la domanda perché c'è la pubblicità. Sì. In poche parole, i voti, la politica si fa con i voti, perciò certo. Ben vengono quegli onorevoli che prendono penso... i voti, non le liste bloccate. Va bene, penso che l'accordo fra Renzi e Berlusconi si sia fatta proprio perché Berlusconi i voti li ha. Pubblicità. Mix 24. Chissà domani su che cosa metteremo le mani, se si potrà contare ancora le onde del mare e alzare la testa, non essere così seri, rimani. I russi, gli americani. Mario, questa l'hai scelta te perché Pietrangelo non c'è, ma mi sembra che l'hai sostituito perfettamente. Pietrangelo è assente per ragioni familiari, lo salutiamo. Certo, un grande abbraccio Pier. L'ho sostituito perché in fondo siamo un po' intercambiabili qualche volta, e questa è la Futura, Lucio Dalla, una grandissima canzone, poesia pura. C'è un aneddoto che molti non sanno, nacque da una visita di Dalla a Berlino, andò al Checkpoint Charlie, si sedette su una panchina a guardare questa cosa, no? Sto passaggio, certo. E da un'altra macchina scese Phil Collins. E i due non si parlarono. E per mezz'ora, come disse lui in un'intervista, stemmo ognuno a farci i fatti suoi. Via. Che cosa bolle in pentola? Allora, bollicine, ci sono cose interessanti. Ci accompagniamo ancora con i nostri effetti e difetti speciali. Vai. Money, Pink Floyd, anche qua andiamo sul classico stamattina. Beh, insomma, Giovanni, tu lo sai che i primi 85 miliardari del mondo hanno una ricchezza pari a quella di 3,5 miliardi di persone povere. Che significa? E significa che questa è l'ineguaglianza, no, che ma cresce. Cioè, i primi 85 miliardari? Sì, 85 persone da sole, c'è una bellissima classifica interattiva su Bloomberg, se vuoi, la puoi vedere. E insomma, sono ricchissimi. E ci sono 3 miliardi e mezzo di persone. È possibile, ogni mese qua arriva un conguaglio, è sempre un conguaglio, è possibile che ci fa la cresta, una casa. Sempre la cresta, sempre la cresta, casa, sempre pagare, più da pagare, sempre da pagare, sempre pagare, mai che arrivano i soldi via posta, arrivano sempre le bollette. Io volevo pagare sto mese, però poi ci ho ripensato. No, non è che ci ho ripensato, è che io sto con le pezze al culo, sì, non c'è una lira. Questi non fanno parte degli 85 miliardari. No, questi, però di questa... c'hanno il conguaglio. C'hanno il conguaglio. E perché abbiamo il conguaglio? Perché noi europei, l'Italia in particolare, ma in Europa abbiamo un costo dell'energia pazzesco. La Commissione Europea sta facendo il piano energetico per verso il 2030, sì. Diciamo così, noi paghiamo il prezzo del gas 4 volte più degli Stati Uniti, il 12% più alto che in Cina. Voi capite che con questi prezzi l'Europa è spacciata, non c'è quella che si chiama competitività. Perché intanto, lo ripetiamo sempre, l'America con lo shale gas, esatto, sta diventando autonoma dal punto di vista energetico, e quindi l'ha detto Scaroni, il mondo. Scaroni chiaramente nell'intervista che gli hai fatto tu qualche settimana fa. Proprio. Tra l'altro ripreso stamattina lo stesso Scaroni dal Financial Times insieme ad ArcelorMittal, che è il re dell'acciaio mondiale, e così via. Noi abbiamo gente che conta nel mondo. Sì. Il problema è che l'Italia non vuol contare perché non vuol risolvere abbiamo i nodi. Gente forse che comincia conta. Adesso. Forse comincia adesso, lo so, speriamo. Sara vediamo. Tardelli è la notizia in 3D, lo ricordo, perché non l'abbiamo detto prima. No, tu hai ricordato prima la Siria, ricordiamo un passaggio giornalistico e poi una notizia. L'ultima domanda, ora che il pericolo di attacco è scongiurato, che cosa si sente di dire e di promettere alla sua gente? Promise and pattern. I think the only thing that I can say now is one option that's left for us is to defend our. Credo che ora ci sia solo una cosa da dire, cioè l'unica opzione che ci è rimasta: difendere il nostro paese. Prima di tutto dobbiamo impegnarci a liberarci dai terroristi, dal loro terrorismo e dalla loro ideologia. Era Monica Maggioni, una intervista importante Assad, un vero scoop, sì. Assad dice insomma che lui non ha colpe del regime, sappiamo tutti che il regime di Assad è quello che è, non purtroppo è, non è dolce per niente, anzi naturalmente Al-Qaeda è se possibile anche peggio. Tu cosa ti aspetti da questa conferenza sulla Siria? Tu domande facili mai, adesso mi pagano per questo. Non lo so, Giovanni, è molto difficile. Guarda, insomma, io ho provato ad andarci a fondo in tutti questi mesi su questa materia. È difficile capire chi sono i buoni e chi sono i cattivi. È complicato. Anche perché il numero di gruppi terroristici che stanno sul territorio e che non hanno niente a che fare con la Siria è aumentato a dismisura, per cui davvero non si sa più chi è chi. È pieno di mercenari, di gente che viene dall'estero, di gruppi di rapitori che lavorano solo per soldi, di disperati, di avventurieri. È un terreno marcio. In questo terreno marcio c'è un report che verrà presentato appunto alla conferenza, che parla di 11.000 detenuti torturati durante la guerra. 800 24 0024 il numero verde, 349 238 6666 il nostro SMS. Ci alleggeriamo un po'? Alleggeriamo un po', perché mancano i salamini di Pietrangelo. No, ma noi ci alleggeriamo è bene. È tempo di relax. È tempo di Santori. Allora. Catto! Tenuio! Questo era Bill Murray, il famoso film Lost in Translation. C'è la scena dello spot che lui gira del whisky Santorin. In Giappone non bevono più e cercano infatti di andare su altri mercati, e in Cina stamattina sono usciti i dati della Rémy Martin sulle vendite del cognac, netto calo, meno 22%, non che ci interessi molto quel che fa l'industria del cognac, però è interessante perché tra le cause pare che vi sia la campagna di moralizzazione del partito per non bere più. Quindi, come vedi, forse lì, qualcosa capita. Intanto Massimo da Milano, buongiorno Massimo. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, mi sente? Sì, la sento. Su cosa voleva intervenire? Sì, volevo intervenire su Israele. Ah, volevo torniamo indietro di un attimo, mi dica. Sì, volevo dire che Israele adesso si arroga anche il diritto di dire agli stati europei cosa pensare. Israele ha messo 1,5 milioni di palestinesi in quattro mura, dall'acqua, l'energia e tutto quello che serve, solo sulla propria decisione. Vabbè, adesso diciamo che è complicato ridurre, e la ringrazio comunque l'intervento, è complicato ridurre a uno slogan, diciamo, la questione israelo-palestinese, che ha dei connotati storici abbastanza complessi, e speriamo che fosse così facile. Fosse così facile, sarebbe già stata risolta. Comunque, grazie. Mario, andiamo avanti con le bolle. The Snatch. Ai Carati. Dove? A Londra. A Londra. A Londra. A Londra. Sì, a Londra. Sapete? Tè, nebbia, Big Ben, cibo di merda, tempo peggio, Mary scassapalle, Poppins, Londra. Londra che io adoro. Dove andrei sempre. Penso, è anche così a volte. Allora, perché Londra? Perché il Parlamento inglese, caro Giovanni, è sempre fonte di cose meravigliose, come tu sai. Sorprende. Sorprende sempre. Allora, il povero Nick Clegg, che è il leader dei Lib Dem, ha il problema di questo Lord Renard, che avrebbe molestato delle donne. Non si è neppure scusato. Clegg gli ha chiesto di dimettersi, non si è neppure dimesso. A questo punto il problema non è più Lord Renner, ma lo stesso Clegg, perché gli inglesi dicono: vabbè, ma questo che cosa comanda? In Italia non se ne è parlato quasi niente. Naturalmente tu puoi immaginare, nel Regno Unito questa cosa sta facendo scalpore e dunque è molto interessante. Poi non so se tu vai al cinema, sì, spesso al cinema vado, però ma, no, ogni tanto ci scambia. Prima ci andavo tantissimo. È colpa mia? Meno. È colpa no, mia, è no. Colpa di Radio 24. Alla sera sono stanco, morto. Ieri... Ho messo 20 anni ad abituarmi ad una figlia lesbica e adesso tu rimani lesbica. Adesso capite perché volevo un figlio maschio. Con Sara c'eri quasi riuscito. Oh! Ma poi chi te lo dice che gli uomini siano meglio delle donne? Oh. Mi sono rotto i coglioni. I padri devono fare i padri, non gli amici. Lo volete capire o no? Somewhere. Abbiamo dato alcuni flash trailer. Così, del trailer di Tutta colpa di Freud. Ieri sera c'è stata l'anteprima al Teatro dell'Opera di Roma, molto bellino, devo dire, molto carino. Sei andato? Sì, ci sono stato in via eccezionale, non guardarmi come un extraterrestre. No, ti guardo come uno che va all'Opera di Roma a vedere il cinema, sono vedere il film. Sono andato, carino. Padre psicanalista, bella gente. Femmine, bella gente. C'è sempre la Roma che goduriosa, la mia Roma. Va bene. No, posso dire, grande interpretazione di Marco Giallini. Molto, molto bello. E poi finiamo con i gol. Vai. Sul destro, Alvarez ancora a sinistro. Alvarez mette dentro. Poi c'è la conclusione di Freddy Guarin. E l'Inter è in vantaggio al 18° minuto. Guarin dopo una grande azione di Ricky Alvarez. Ancora per poco, eccolo là che spunta fuori poco, lo Juventino che c'è in te. Allora, giusto, dimmi, giusto ci serviva. L'ho messa apposta questa proprio per te. Ma tu ci speri davvero che Tuir ve lo ceda? Ma sono sicuro. No, sicuro, insomma. Ma non piangi neanche un po' per aver perso Mirko Vucinic? No, ma io sono contento se l'Inter si rinforza un po', perché mi sembra che stia veramente messa male. Cioè, e quindi voi gli fate un favore. Noi siamo generosi, pensiamo anche agli altri. Prendendovi Guarin. Ragazzi, Minori è proprio juventino fino al midollo. Questo è vero. Sempre, e penso che ci abbia fatto molto bene la Serie B per un anno. Certo che però tu che comincia cedendo Guarin, mamma mia. Non è proprio. Non sono sicuro che i tifosi siano felici. C'è uno slogan. Citofonare Moratti. Ha già detto. Prego. Moratti oggi ha detto che il presidente è meglio che stia a Milano, perché ce n'è bisogno. Mi sa di sì, mi sa proprio di sì. Vieni alla regia. Mix 24. Sono le 9:46, 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS. A dicembre, quando i forconi hanno bloccato Torino e hanno manifestato davanti alla regione, c'era anche un ragazzo, Simone, che stava per partire per l'Australia alla ricerca del suo futuro. Una scelta che coinvolge sempre di più molti giovani. Noi abbiamo deciso di seguirlo in questa avventura. L'abbiamo già fatto e lo rifacciamo. Ma è l'impatto con l'Australia, com'è stata? Una terra stupenda, eh? A me mi è data la sensazione di quando sono andato in Canada, però col clima estivo, quindi strade enormi, grattacieli nel centro città. C'è violenza in giro per la città? No, di quello che ho visto fino adesso, zero. Senti, e adesso però hai trovato anche un lavoro oppure no? Sì, dopo una settimana ho trovato un lavoro, back bar, che non è il barista ma è quello che si occupa di tutto il resto, cioè fare in modo che i baristi abbiano sempre i bicchieri pronti, puliti. E, sì, e quanto guadagni a fare il lavabicchieri a Melbourne? A Melbourne le prime 3 settimane $18 l'ora netti, e poi dopo 3 settimane diventa $20 l'ora. Accidenti, però quante ore lavori? Lavoro più o meno dalle 9 di sera fino a chiusura, che sono le 3 del mattino. Insomma, ti paghi l'affitto più o meno, un po' di più. Sì, ecco, diciamo che con 2 giorni lavorativi io mi pago l'affitto e mi pago il mangiare. Adesso dimmi una cosa francamente, ti manca Torino? Sì, diciamo sì. Sì, in certe cose mi manca il Torino, mi manca la famiglia, mi manca gli amici, mi manca le sicurezze. Però se sei un giramondo, come ci avevi raccontato, è perché ti piace l'insicurezza e l'avventura. Certo, infatti sono qui. Senti, ma dimmi una cosa, ma perché lavare i piatti, i bicchieri, non potevi farlo a Torino? A Torino sarebbe sembrato un bruttissimo mestiere. Noi in Italia non c'è nessun ragazzo di 24 anni che lo vuol fare. Lo fanno gli immigrati. Certo. È strano questo. Certo, certo. E come certo. Mai secondo te? È un'altra concezione del lavoro. Cioè, ormai in Italia si può fare solo il super manager, e invece a Melbourne si possono lavare i piatti? E invece a Melbourne sì, si possono lavare i piatti. Io ho anche degli amici che fanno i lavapiatti, guadagnano anche loro tra i 16 e i $18. Allora. Senti, ma c'è comunque ti ripeto, la vita è cara comunque è qua. Cara, sì. Senti, ma adesso hai aperto un tuo blog, aprirai un tuo blog, potremo seguirti, perché noi vorremmo seguire l'avventura di questo ragazzo che da Torino protestava coi forconi e adesso fa invece il barista e lavapiatti a Melbourne. Quello... ed è contento. Sì, là era protestava e qui è contento. Beh, interessante. Sì. Intanto lasciando Torino sei uscito dalla nebbia, insomma, è già una cosa. sì, sono arrivato qua, che oggi c'erano, non so, qualcosa come 45 gradi, ma un caldo così io l'ho vissuto soltanto a Siviglia. Che meraviglia, cioè, che meraviglia, calda. Insomma, no, tutto il giorno a troppo, fare il bagno. Troppo. Ma vai al mare, no, il mare no, è bello? C'è di meglio. Vabbè, senti, sì. Allora, appuntamento fra una decina di giorni con le novità. Intanto incominceremo a seguirti sul tuo blog. Come si chiama? Marcellino Super Trump. Allora, Marcellino Super Trump, dalla nebbia di Torino, dai forconi di Torino e a lavare i bicchieri a Melbourne, però felice. Bene, ti seguiremo. Ciao, auguri. Grazie, arrivederci, ciao. Allora, al telefono abbiamo il professor Daniele Doglio. Continuiamo a ragionare sui fattori cruciali dello scenario televisivo nell'ottica dell'appuntamento del 2016 del rinnovo della concessione del canone. Buongiorno professor Doglio. Buongiorno. Ma intanto, ha visto la notizia di oggi che la RAI protesta, anzi ricorre, perché non è stato attribuito, pagata la quota di canone che il ministro Zanonato doveva pagare. Si comincia a parlare di canone a livello complessivo. La notizia l'ho appena vista e quindi non sono ancora in grado di elaborare un pensiero. E allora parliamo della notizia che invece ha scovato per noi. No, è una riflessione più che altro. Ai primi dell'anno sono usciti i dati di questi studi che uno degli uffici studi di Mediobanca fa ogni 3-4 anni sui segmenti di diversi mercati, in questo caso è sul mercato televisivo italiano nel quinquennio 2008-2012. Sono analisi microeconomiche che permettono di capire attraverso l'analisi dei bilanci lo stato di salute, mettendo a confronto ecco. I dati di bilanci dei diversi. E allora facciamo questo confronto. Allora intanto... Com'è? È importante chiedersi se è importante, nel nostro ragionamento, cioè rispetto alla scadenza 2016. Sì. E lo è perché evidentemente quando ci arriveremo, tutte le imprese che teoricamente potrebbero partecipare alla gara per la concessione dovranno avere come minimo bilanci a posto, situazioni patrimoniali in equilibrio, indice di efficienza gestionale tali da garantire che il canone, quale che sia il suo ammontare, sia investito in maniera efficiente. Qui il problema non è di fare dei confronti tra operatori dichiaratamente commerciali. Certo che no. Fine è esclusivamente il profitto e operatori che hanno invece una caratteristica prevalente di servizio pubblico. E debbono avere una vocazione diversa. Devono avere una vocazione diversa, però in qualche modo bisogna trovare... Devono essere anche aziende. Bisogna che la struttura dei costi sia tale da evitare sprechi. Insomma, I risultati più interessanti di questo studio di Mediobanca quali sono? Sono che, per esempio, vediamo che Rai ha un fatturato per dipendente che è meno di un terzo di quello di Sky. Sky è il migliore del settore, è meno della metà di quello di Mediaset ed è perfino inferiore a quello della Sette. Detto in altre parole, perché non voglio usare numeri che alla radio non funzionano mai, Sky Italia, pur avendo il 65% dei dipendenti in meno di Rai, ha realizzato un fatturato superiore al 5% a quello di Rai. Cioè lavorano di più e meglio? Lavorano di più, forse la parola più che dire meglio è... No, meglio, di più, dico, con più efficienza. C'è una capacità di produzione migliore. La cosa si riflette anche sulla produttività, per dipendente, che in Rai è solo di 76.000 euro contro i 100.000 e passa di Mediaset e Sky. E si riflette sul costo del lavoro, dove diciamo gli operatori commerciali, Sky ha il 53,4% di costo del lavoro per unità prodotto, Mediaset 85%, Rai addirittura supera il 100%, ha il 115%. Ora ci sono altri numeri sulla struttura patrimoniale, insomma, per andare che però ci porterebbero... Ci danno comunque la sensazione che Rai si sta avviando alla scadenza del 2016 con una struttura di conto economico patrimoniale abbastanza fragile, sulle quali bisogna evidentemente mettere le mani. Penso che stiano lavorando. Stanno lavorando in questo momento con i cosiddetti tagli lineari. Qui il primo obiettivo è recuperare quei 200 e passa milioni di perdite evidenziate lo scorso anno, perché evidentemente non si può presentare a quell'appuntamento con un bilancio in perdita. Si tratta di un taglio che ha ridotto drasticamente i budget di produzione delle reti, sta incrementando... Però la Rai continua a vincere negli ascolti, quindi il sistema complessivo... C'è un problema, produzioni a basso costo. Insomma, il rischio è che per il momento ancora non si vede l'impatto sull'offerta dei programmi e quindi sugli ascolti, ma abbiamo ancora 2 anni di tempo. Bisogna trovare un punto di equilibrio molto rapidamente, perché è chiaro che per il 2016 Rai dovrà presentarsi a quell'appuntamento assai più snella di quella che è oggi, anche perché, come abbiamo detto, lo scenario competitivo è cambiato completamente e non si può continuare a dire ma noi abbiamo tante altre cose da fare oltre a quello. Va bene. Comunque insomma, d'accordo, sono dei numeri. Va bene, allora rifletteremo ancora sui nostri numeri. Grazie professore. Intanto devo dire che ci scrive Daniele, uno dei miei dipendenti, il più giovane, mi ha appena comunicato che si licenzia perché parte per l'Australia. Qua non vede futuro. Come dargli torto? Questo è Daniele. Senta, un altro che però non si firma e quindi non lo leggo, Giovanni, perché leggiamo solo quelli firmati. Giovanni, già la detto. Paga era buona. Era buona la paga. Sì, cioè, era ha fatto buona. Bene andare via da Torino. Certo. Comunque, la storia di Mix 24 di oggi, curata come sempre da Marina Milone, è dedicata a una grande diva del nostro dopoguerra, che è anche una grande donna, Silvana Mangano.